Sono le 18:30. Petrolio, Turchia, a Bariso. Vattene a casa, dacci la zanzara. Stiamo parlando di criminale Assad. E tu sei una cazzo internazionale. Stiamo parlando, stronzo che non sei altro. Ma che dici? Cosa stai parlando? Ma una volta facevi il giornalista, che insultare. Ma che cosa sei? Pagato da Assad. Allora io ti denuncio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ah, rompi il cazzo, figlia, ciao. Il conte Mascetti è dispensa pillole per il cazzo. Parenzo che rimane sdegnato. Rom, negri, immigrati, razzi, io nella vita non voglio altro. Cruciani, quanto mi ingrifi. Parenzo, immondo pezzo di sterco. Ho appena sentito il tuo attacco alla signora Rosa, vergognati, sei una merda vivente, anziché attaccare il negro schifoso che faceva il bastardo con la capotreno donna, tu attacchi la signora Rosa, immondo pezzo di sterco, se capita a me gli taglio anche il collo, bastardo. Penso che si taglia il prepuzio e fa il patto con il signore. Ma che cazzo stai a di? Cioè, il professore che crede agli alieni, no, ribadisco. Un dio che chiede di tagliare l'uccello al figlio, sì. Tutto chiaro, va bene. Crux, ce n'è ancora le pasticche di Viagra? Impido. Naturalmente. Miserabili. Caro David, siamo qui. Siamo vivi e questa è già una cosa importante, eh. Siamo vivi e questo che è importante. Che clima. Riascoltando le parole del signor Chiesa, sì, che voi sì, molto sì, generosamente rimandate spesso in onda, non c'è dubbio. Mi era sfuggito il test di cazzo internazionale. Sì, questa non è male, effettivamente non cioè, è male. Non sapevo che esistesse proprio la qualifica della testa di cazzo, d'accordo, ma internazionale, quello è interessante. Cioè, riascoltarlo. Sì, perché siccome parlavamo di cose straniere, sì, forse lui l'ha allargato. Sì. No, per carità, è un insulto anche preciso. Però stai bene, sorvolando quindi sulla questione del prepuzio, cioè il matto, no, ma il matto che non parla di UFO è matto, mentre quelli che, certo, l'argomento riguarda la religione, quelli che si fanno tagliare, no? Tradizione millenaria, tradizione importante, ed è una tradizione che soprattutto se la vedi dal punto di vista bambini dell'igiene. Bambini piccoli mutilati. E non è considerata una mutilazione dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vabbè, pazienza. Anzi, è considerato un intervento che in America verrà reso necessario. Dovrebbero farlo tutti. Certo. Allora, Parenzo, due punti. Tutti dovrebbero tagliarsi il pisello come fa lui. Le malattie venere, le malattie a trasmissione sessuale. Vero, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma non lo dice Soros, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vabbè. I circoncisi diminuiscono la diffusione di malattie a trasmissione sessuale. Gli altri sono tutti, come dire, meno vicini alla verità. Ci sarà un motivo. Ma no, ma scusami, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non è in mano al barone di Rothschild, perché non è in mano fino a prova contraria al barone di Rothschild. Però potrebbe essere in mano alle multinazionali. Ma che interesse hanno le multinazionali a dire a tagliare che i piselli, dici? Esatto, nessuna. Quindi non lo so. Allora, due paroline su quello che è successo ieri in America. E in più rende più felici le donne, se vuoi sapere. No, quella è una stronzata. Questo... Dai, questa no, è una stronzata. No, è vero, perché in persone, ad esempio, come te o come Andro Mercù, che hanno problemi ad... perché sostanzialmente hanno l'eiaculazione precoce. No, io non assolutamente non mi hanno detto dire. Così. No, io non il ho... web, la rete dice questo. Io l'ho trovato sul web. Non ho nessuna eiaculazione precoce. La rete dice questo. Ho tanti problemi, ma non questo. Il web. Ma no, ma non è questo. La rete. Intanto l'abbiamo detto. Se tu metti in rete cruciale eiaculazione precoce, trovi 50 commenti. Posso dirti una cosa? È da un po' di tempo, da anni ormai, che riesco a regolare tutto a mio piacimento. Cioè riesco a regolare. Questo è normale, una cosa dovrebbe essere normale. A decidere io anche dopo tipo tre quarti d'ora, capito? Riesco è la famosa esercizio di trattenimento. Vabbè, di contenimento. È prassi. Perché mi hai trascinato in questa discussione? Questa è prassi. Sei stato dirti tu, sei stato tu questa volta a trascinarmi in questa discussione. Volevo dirvi semplicemente che oltre a una questione di igiene riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è anche una questione sessuale. Che in persone come te e come Mercù in particolare rallenta l'eiaculazione e quindi aiuta l'orgasmo femminile. Dai, ragazzi, e questo bisognerebbe è... capirlo con il rabbino, questo qua, se è vero. No, non c'è nessun rabbino, basta chiamare un medico. Medico qualificato. Vabbè, durante la trasmissione invito i medici a chiamare. È vero o no che con il taglio, eccetera, con la circoncisione si scopa meglio? Questa è la sostanza, no? Cioè si ritarda l'eiaculazione. Questo tema proposto al signor Parenzo, io questa volta no, non c'entro nulla. È un tema per rispondere a quei quattro imbecilli ignoranti che hanno lasciato questi messaggi vocali, che quell'altro criminale che si chiama la corte, che so è già stato raggiunto da un avviso di garanzia da parte di Woodcock, mette nella copertina. Quindi è solo per dare una risposta a voi, poi dopodiché io solo per parlare di altro. Allora, volevo dire una parolina su quello che è successo in America con questa strage. Bravo. Allora, nonostante strage, quello... dillo subito, fatta da un signore bianco. Sì, puoi sì. ripeterlo per cortesia. Signore bianco, bianco. Certo, bianco e forse anche cristiano, non lo sappiamo. Ma allora, nonostante bianco. Quello che è successo... Bianco! Sì, un uomo bianco... No, sì, no, non rompere i coglioni. Sì, lo sappiamo, bianco. Un uomo bianco, bianco, ma lo sapevamo bianco. Moltissime ma cose. Ma non è un muslim, è vabbè, un bianco. Sì, ho capito, ma che c'entra? Lo puoi dire che è un bianco? No, perché siccome... Certo, ma non c'entra nulla. Siccome sai ormai è bianco, allora, non ho... ha massacrato. Oh. Aveva mi fai 23... parlare o no? Mi no, fai parlare o no? Devi dire solo che è bianco. È bianco, devi bene, farmi è bianco, cortesia. È bianco. Basta che non rompi coglioni. È anche cristiano. No, quello non lo so e se non è cristiano, musulmano. Magari ateo, magari ateo. No, è bianco. Puoi sì, dire bianco. Ogni due minuti che è no, bianco. No, non lo dico ogni due minuti e non rompi e allora coglioni. Vado via. E devi chi dire che è bianco. L'ho detto, l'ho detto. Nonostante quello che è successo, io resto strafavorevole, ma non favorevole, strafavorevole all'uso delle armi come è concepito e come è studiato in America. Oh, sì. È una questione di libertà personale, libertà di scelta, libertà di armarsi è strettamente connessa alla libertà personale. Dunque sì, possono capitare anche queste cose, ma sarebbero capitate comunque anche con i divieti, perché se uno si vuole armare si arma lo stesso. No, per cui non me ne frega nulla, sono favorevole all'uso delle armi come è concepito, poi ogni stato è diverso, lo vedete come nella gran parte dei casi è concepito in America. Se poi uno aveva 23 fucili, 10 valigie con le pistole, ecco, chi se ne frega, ma dai. L'avrebbe fatto lo stesso, se le sarebbe procurate lo stesso anche no, con i divieti. No, perché la cosa criminale che ha fatto Trump, l'abbiamo detto, uso l'ho delle detto armi già mesi diffuso fa, come in America, questo ci vuole in Italia. Tolto questo. I controlli, cioè gli psicolabili possono detenere perché delle signor, armi. Perché signor Beretta non ci dà qualche lira per questa propaganda te, che me, io faccio? Dovrebbe darmi qualche regalo, qualche lira, un fucile, una pistola. Perché mente tante cazzate ogni giorno, quelle sì che le spariamo, che non c'è bisogno di fare propaganda alle armi. Allora, Rom ieri a quinta colonna. Rom ieri a quinta colonna. Lavoro, non c'è sono andato a rubare. Mi hanno condannato 6 anni. Rapine mi hanno messo. Non è che sono andato a rubare per hobby. Vado a rubare perché non c'è lavoro, non lo faccio per hobby. Ci chiudono nel campo che mi buttano fuori con i bambini, ma dove andiamo? Perché noi stiamo qua bene, ci abbiamo acqua, il calda e fredda, ci abbiamo lavatrice, i bambini sono tutti in scuola. Beh, questi non vogliono la chiusura del campo perché ovviamente hanno l'acqua. calda gratis, stiamo bene, acqua ripeto gratis, gratis. Hanno l'acqua, mamma l'acqua. Mia, hanno l'acqua. Beh, l'acqua hanno gratis, l'acqua? No, ma l'acqua va bene. Oh, l'acqua. Mamma mia, ma l'acqua va bene, l'acqua. Ma perché la dobbiamo pagare noi l'acqua dei Campi Loro? No, ma non c'è dubbio, va perché pagare, la dobbiamo pagare noi? Beh, la pagassero, facessero una colletta, vendessero un po' di rame, andassero a fare qualche portafoglio, va benissimo, ma almeno pagassero la bolletta. Tanto vanno, rubano dei portafogli in giri, rubano, questi posti non c'è, non c'è, c'è da chiudere, c'è da chiudere tutto, c'è da chiudere tutto. A un certo punto Del Debbio si alza e va nel campo rom della Magliana, sì, insieme a un deputato del PD che si chiama Ermini e anche con Gasparri, con signor Gasparri. Ottimo Gasparri, credo ottimo. Che nel campo ci fosse già marcato pronto là seduto dentro, sì, il campo, certo, rom. Cosa pazzesca, detto. Che effetto le fai su questo campo rom? Ma mi sento a casa in mezzo a tutti questi lavoratori, io mi sento quasi a casa, insomma. Allora c'è la fidanzata di un mio amico, la fidanzata di un mio amico che sta all'ascolto, che dice: smentisco Parenzo, credo sulla questione della circoncisione. Beh, però, avrà dei problemi con questo fidanzato, evidentemente. No, non ha nessun problema, non ha nessun problema, da quello sfido che so io. Chiunque, sfido qualunque medico serio, sì, ovviamente, la circoncisione, cioè il piccolo taglio del prepuzio, crea meno sensibilità al pisello, diciamo al pene dell'uomo, e ciò può venire in ausilio a persone come voi che hanno problemi legati all'eiaculazione. Questo è quello che io sostengo. Tu hai detto anche che si scopa meglio, si fa meglio l'amore con il pisello senza con il pisello circonciso, ma è una puttanata. Perché dai, intanto è cabriolet, come dire, no? È cabriolet. Che vuol dire? E quindi cabriolet, se, cabriolet scoperto vuol dire. Che cabriolet vuol dire? Cabriolet scoperto, allora, come si allora dice? Sì, vabbè, dì, ed essendo scoperto è anche aerodinamico, e anche da un punto di vista estetico è molto meglio rispetto a quelle cose chiuse e sporche che avete voi. È come avere il burka, voglio... dice, è come avere il burka, dici, no? Avere, avere il no, pisello non circonciso, è come avere un velo, un velo. Forse è pisello velato, velato. Io direi, ecco, velato, chiuso, introverso, introverso, chiuso e soprattutto che è maggior stimolato, e quindi troppa stimolazione genera un'eiaculazione precoce. Ma questo non lo dico io, mi dispiace. Medici, medici, venite a noi, venite a noi. Allora, sempre marcato nel campo rom, esponente della Lega, marcato. Marcato, ma marcato. Nel campo cosa rom, fa? Senti. Marcato. Ma che fa il politico? Che fa? No, ma perché tutti i giorni a Quinta Colonna? Io non lo so, perché tutti i giorni usano come noi usiamo i nostri, loro usano i loro. Adesso, in questo momento, vi faccio vedere se volete, c'è un sacco dei lavoratori qua. Se io ne prendo 5 a caso, sono assunti o emettono fattura, pagano le tasse in Italia. Le tasse. Vengono, ne prendo 5 a caso, ne prendo. Vai, vai con Marcato, chiaramente lì. I rom che erano lì, a parte quelli che dicono che rubano, erano tutti i pochi che lavoravano, mi sembra evidente, i pochi che lavoravano regolare. Quello che non ho capito è, visto che qua tutti lavorano, hanno la partita IVA, pagano regolarmente le tasse, tutta sta gente che va in giro a rubare, a rompere le balle, sono delle comparse come i gladiatori davanti al Colosseo pagati dalla Proloco? Perché mi manca un pezzo, non capisco. Assumi la rom, Parenzo! Ond'è che chiudete, cornuti? Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate all'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Ci manderei voi due deficienti a lavorare nei circhi al posto degli animali. Cruciani, a te ti faccio saltare nel cerchio di fuoco. Invece Parenzo lo faccio inginocchiare al posto dell'elefante, perché a Parenzo piace inginocchiarsi, vero? Teste di cazzo. Beh, amica mia, se tu ci dai delle teste di cazzo, noi ci facciamo scivolare tutto addosso, figuriamoci, va benissimo. Sei autorizzata a farlo. Ma cosa dire allora? Ne abbiamo parlato ieri, abbiamo intervistato la protagonista di questa vicenda, di quelli che, come alcune associazioni vegane, hanno protestato per l'acquario nello studio del signor Fabio Fazio. Cioè, voi capite cosa cazzo hanno in mente questi? Soprattutto come passano la giornata? Quante ore occupano invece di lavorare a pensare all'acquario nello studio del signor Fazio? Ma che ve ne frega, non è una prigione l'acquario nello studio del signor Fazio, come dicono alcune associazioni vegane. È l'acquario, esiste in moltissime case, non significa tenere prigionieri i pesciolini. Tra l'altro sono pesci, mi hanno segnalato dopo l'intervista che abbiamo fatto. Ma l'acquario è un albergo per i pesci. Aspetta, aspetta, oltre a questo sono pesci d'allevamento, cioè sono pesci che vengono prodotti, che se fossero gettati in mare sarebbero mangiati immediatamente. Sono fatti apposta per stare dentro gli acquari. Non rompete i coglioni, pensate alle cose serie della vita, non agli acquari. I pesci vanno benissimo dentro gli acquari, sono meravigliosi. Oddio, io non c'ho tempo manco per, figuriamoci, manco per un gatto, figuriamoci per stare lì con staffare, mettere cibo dentro gli acquari, una cosa. No, ma l'acquario in realtà non ti porta via tempo, perché tu ce l'hai lì, meraviglioso. Sì, ma devi darle ogni mangiare. Tanto gli dai un po' di pastura, hai, so che tu hai una volta al giorno. So che tu hai i filippini che lo fanno, io non ce li ho. No, ma no, filippini non ce li ho assolutamente, ma voglio dire, non ho acquari a casa perché non mi interessa l'acquario. Avevo da piccolo un pesce rosso ed è morto per giunta dopo un mese, forse perché gli ho dato troppo da mangiare. Non lo ma dire che ti potrebbero denunciare. In genere, oh, capito, è morto, cosa devo fare? Mi dispiace, è morto il pesce rosso, l'avevo vinto alle giostre, sai quando vai alle giostre da bambino? Attento a quello che dici. Il pesce rosso, ma gli avrò dato troppo, avevo 8-9 anni, gli avrò dato troppo da mangiare, è morto, l'ho preso, l'ho seppellito in giardino, arrivederci e grazie, che cosa devo allora, fare? Allora, a proposito di Rom, ieri era presente anche un mediatore culturale di quelli amati da Parenzo, si chiama Ion Bambalau. Beh, il nome già è tutto un programma. Ion Bambalau. Ion Bambalau. A un certo punto dice: io non lavoro, mia moglie fa l'elemosina. Senti, mia moglie fa l'elemosina. Cioè, la moglie del mediatore culturale, signor Ion Bambalau, fa l'elemosina. Ora, per carità, va bene fare l'elemosina. Cioè, ma per. Ma sentiamo. Io ho lavorato 10 anni in Italia, adesso sto senza lavoro perché ho perso il lavoro. E come campi? Campo da. Facciamo la limusina, noi io, mia moglie fa la limusina. Che fa la moglie? Non ho capito. Ah, la limusina. Ma questo non ho capito, è un mediatore culturale? Cioè fa il dice di fare il mediatore culturale, ti giuro, questo Ion Bambalau. Senti perché anche lui non, perché lui non fa la limusina. Non posso e andare. Ma non ci vai anche te a fare la limusina? Io non mi permetto, che sto male. Che hai? C'ho problemi col cuore. Sto male col cuore. Questo manda la moglie a fare l'elemosina e lui non fa un cazzo, certo, perché c'ha problemi, c'ha problemi col cuore. Dai, su, e noi dovremmo dare soldi e case a questi qua che fanno. Ma dai, ragazzi, ma se c'ha problemi col cuore, cosa devi fare? Ma dai, su, ma che problemi al cuore, dai, quali problemi al cuore? Senti Bambalau, sempre Bambalau. Questo Bambalau lo voglio assolutamente intervistare. Bambalau. Bambalau che dice: se mi buttano fuori da campo come faccio con figli e nipoti? Chiedo di come, fa, come certo. Faccio? Vai a trovarti una casa come tutti noi, come signor Longoni qua che si incazza per queste cose. Signor Longoni che lavora a questo programma si incazza e dice: io vado a cercarmi una casa, vado a vado a cercarmi una casa. Perché devo sentire i signori Rom? Ma perché Bambalau? Perché Bambalau se bussa a qualcuno dice: salve, chi sta? Sono Bambalau, non gli affittano la casa a Bambalau probabilmente. Chi se ne frega? Io riesco bene a capire che Italia e tutti noi attraversiamo un brutto periodo politicamente, economicamente. Sì. Ma se noi siamo buttati fuori dai campi nomadi, il comune di Roma non ha obbligo da aiutarmi. Ma no. Se io sono di etnia rom e chiedo un diritto umanitario, ma come perché? Faccio Paolo a vivere se ho un sacco Paolo, di figli, la moglie, la nora e i nipotini? Ah beh, certo, chiede il diritto umanitario, ragazzi, ma insopportabile. No, però la cosa vera da sottolineare. Il diritto umanitario. No, ma la cosa anch'io è un'altra. Anche a me se mi buttano fuori da casa dico diritto umanitario. C'ho no, una ma figlia, la cosa singolare, la cosa vera da notare è che ormai i Rom sono talmente parte Paolo, di quinta Paolo, colonna Paolo. Che lo chiamano Paolo, è una cosa straordinaria. Paolo, ci sono Paolo. Talmente integrati che sì. Lo chiamano Paolo, questo è meraviglioso secondo Lorenzo me. Da Bologna, punto. Vai Lorenzo, vai. Buonasera a tutti. Buonasera amico Rom, dimmi. Buonasera, no, amico Rom, tua sorella forse. Signor Lorenzo, se lo chiamano Rom si incazza, come mai? Come a mai? Parte questo, no, ma non mi interessa parlare dei Rom. Il mio discorso è molto più semplice. Sulla circoncisione, credo che il signor Cruciani abbia inanellato una serie di luoghi comuni. Quali sarebbero? Sua, sei ebreo? No, non sono ebreo, però posso dire che... Sei circonciso? Sì. E perché perché ti sei circonciso? Bravo. A causa di un incidente ho capito. Hai avuto un incidente al glande. Bellissimo, pensavo un incidente automobilistico. Invece ho avuto un incidente al glande. Una cosa dolorosissima, immagino, l'incidente al glande. Sì, è molto fastidioso, soprattutto perché da adulto l'intervento fa male, è fastidioso. Ma che intervento, scusa, se posso, che intervento è stato? Cioè, che circoncisione, proprio ma che hai avuto il problema? Hai sbattuto il glande contro qualcosa? Che hai fatto? Sei ingrossa? Sì. Ma che te ne frega? Sì. Ma no, ma è interessante. No, ma non è interessante. Però spiega... è un dettaglio privo di senso. Beh, però spiega ora quanto è bello, funzionale, pulito, aerodinamico e soprattutto è bello anche esteticamente. Sul fatto dell'aerodinamica forse il signor Lorenzo gira con... Però Lorenzo, aspetta, scusami, adesso siccome purtroppo ci interrompono ogni 20 minuti perché... Vabbè, lasciamo perdere. Tu vuoi dire funziona meglio o no? Questo non ho capito. Sì, funziona meglio. Dura di più? Dura di più, sì o no? Sì, è tutto più bello, tutto molto più bello. Fermi tutti. Non trasmette malattie. Bravo. Amici miei carissimi, siete in ascolto. La pubblicità. Pubblicità. Fa la limusina. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Zanzara. Noi stiamo diventando stranieri nel nostro paese. In questo piccolo fazzoletto di terra, piccolissimo, stanno arrivando ciurme, carnaio dall'Africa. Questa è un'Africa immensa, hanno prolificati con i loro cazzi duri a chiavare, a più non posso, hanno creato figli, li stanno portando qui. Li stanno portando qui. Io questi negri li faccio sparire. Tu sei la vergogna d'Italia, tu sei una vergogna, sei bastardo che sei altro. Che ti diverti, tu devi crepare, bastardo che sei altro, altro che ti diverti, e così devi andare avanti, stronzo che sei altro, tu devi crepare, bastardo che sei altro, guarda, tu sei un cretino, guarda, tu non meriti di vivere, guarda, tu non devi neanche vivere su questa terra, perché tu sei uno, ma no, cioè, tu sei la vergogna d'Italia, tu sei una vergogna, sei bastardo che sei altro, vai avanti così, vedrai prima o poi cosa ti succede, vedrai. Perché i scemi come te girano sempre, i scemi come te, i bastardi come te girano sempre e sono dall'altra parte, anche dall'altra parte sono bastardi come te, vai avanti così, e vedrai poi dopo cosa succede, bastardo cos'è altro. Questa era l'ultima performance contro di me da parte del signor Paco Spada di Fuoco. Come dagli torto. Mi augura la morte, ti voglio segnalare questo. Metaforica, una morte politica. Metaforica. È una morte politica quella di cui parla l'ottimo e moderato Paco, è la morte politica. Intanto succede che il presidente Grasso, il presidente del Senato, seconda carica dello Stato, in visita a Lampedusa nell'anniversario del naufragio, della terribile strage nella quale sono morti i migranti, come ricorderai, ha usato delle parole importanti, cioè ha detto l'asilo, il diritto d'asilo va dato non soltanto a chi fugge da guerre, ma anche a chi fugge per la fame. Questo, guarda, veramente sì, veramente, è un passaggio certo. importante. Ma voi siete che matti. Fa onore al presidente. Dovremmo in questo Senato. Modo ospitare tutta l'Africa. Ospitare tutta l'Africa. Tutta se uno la, dice ho fame, ho fame e scappo, ma... ho fame, ospitatemi, vengo in Italia. Mario, ma sei matto o no? Ma sei un allora, completamente... il 3 ottobre del 2013 morirono 369 vabbè, vittime pazienza, nella, bene, strage, ma nella strage del Mano. Ognuno no, si prende no. il rischio, ognuno si prende il rischio di salpare dall'Africa. C'è un rischio quando tu prendi un barcone, che è quello di crepare in mare. Tu di sai, crepare ma, in mare. Tu capi, ma ecco, ma tu prova a immedesimarti per 40 secondi. E di chi? Degli scafisti? E ma di chi? Ma non, di non chi? Li fermerete. Per anni ha sopportato questa cosa, anzi ha usufruito ma non di li fermerete, cosa. Non li fermerete no. perché il desiderio di felicità, il desiderio di scappare dalle guerre questo sicuramente. Porterà comunque queste persone qui. Quel mare ha visto 30.000 vittime. Chiudere, ma tu sai come cosa l'Australia. Sono 30.000 chiudere come per... l'Australia, chiudere tutto, chiudere tutto, chiudere, chiudere, chiudere. Basta con questa storia, chiudere come fa la Spagna, paese democratico. Che sta andando per fortuna verso il disastro, perché grande caos. Io sono comunque, a usiamo favore questa del giornata caos. Per ricordare quella strage del 3 ottobre 2013. Qui non dobbiamo ricordare un cazzo, ma lo ricordi Grasso, ricorda la persone. Tua a casa tua, accendi un cero, ricordiamolo, assumi a casa no, ricordiamolo uno. Perché noi ma non ricordiamo, ricordiamo un cazzo. Questo, ma ricordiamo no, ma quella tu, terribile non strage a tutte queste persone ma schifose figurati. Che telefonano, questi miserabili che telefonano, non quelli che ascoltano, quelli che ascoltano sono brave persone, quelli che chiamano devono sapere che oggi va ricordato la strage, quella famosa strage. La gente strage vive tranquillamente morirono. Senza ricordare una mazza. Male, allora, male, male. C'è però, ti voglio segnalare a proposito di extracomunitari, a proposito di migranti, che a Treviso, verso Bassano, prima di Bassano, credo due giorni fa, un intero treno è stato in balia di una baby gang di nordafricani. 40 minuti, baby gang, 40 minuti in mano a una baby purtroppo, gang. Purtroppo, certo, la violenza urbana esiste, la esistono violenza queste urbana. Baby esistono queste baby gang. Dice, esistono baby no? gang di bianchi, di neri, tutti. Ma di no? peruviani, di neri, di bianchi, di ultras. Bah. Esistono gli ultras che devastano i treni, che fanno gli scontri con la polizia. Esistono le baby gang di negri. Esistono, esistono. Purtroppo la violenza esiste, amico mio. E quindi. Allora esistono. C'era Matteo dalla provincia di Padova. Matteo dalla provincia di Padova. Dimmi, Matteo, allora tu con la circoncisione, ma hai chiamato prima tu o sei un altro? No, sono io ho chiamato io. Sei tu. Allora, tu vuoi dire che con la circoncisione sostanzialmente si scopa meglio. Che vuoi dire con questa cosa? Ma a me mi pare una follia. Cioè non... sì, ma che vuol dire? Perché... Cioè, tu hai paragonato la tua attività sessuale prima e dopo? Sì, perché praticamente io sono di una famiglia ebraica e quindi ho praticato quella che si poi chiama fimosi, l'operazione che porta alla circoncisione chirurgica, no? Scusa, ma hai mai detto, che hai avuto un incidente? Che non no, sei no, breve. Nessun incidente. No. Ma non sei quello no, di prima, allora che cazzo dici? No, sono no, quello di prima. Non sono Lorenzo quello, no, io sono un altro. Sono vabbè, un altro. Allora? Niente, praticamente prima praticavo senza circoncisione e dopo con la circoncisione e le cose sono migliorate. Scusa, quando ti sei circonciso? Certo, che età? Perché si indurisce, a 21 anni. Vabbè, prima di 21 anni, amico mio, avrei scopato poco prima di 21 poco, anni. Poco, ma anche adesso scopo poco, però è soddisfacente, cambia tutto. Poi una cosa che può interessare soprattutto a te, puzza anche molto meno. Puzza meno? Sì, cioè ma non è così, dai, su, c'è un problema, c'è una questione di igiene che è confermata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma certo, ma sì, ma guarda, te lo posso proprio confermare. Sì, ho capito, ragazzi, cioè voi invitate il mondo a circoncidersi. Questo no, è il punto, se uno vuole lo fa. No, però tu ci sei raccomandato. Ma ci sarà un motivo se gli attori porno, ad esempio, sono quasi tutti circoncisi? Ma è vero, un sacco di gente non è circoncisa, gli attori porno. Non mi interessa entrare nel merito. Io non credo che mio amico, per esempio, come si chiama, quello... No, la carogna, là, come si chiama? Jenny la carogna. No, Jenny la carogna, là, come si chiama? Non mi ricordo più. Il camionista, quello che sì, fa il camionista, la moglie. Esatto, quello che fa fin con la moglie. E mio amico Jack quello. Lo squartatore, come cazzo si chiama quello là? Ogni volta mi scordo. Tommy la canaglia, Tommy la canaglia. Esatto. Non credo che Tommy la canaglia sia Tommy, circonciso. È una puttanata, dai. Hai visto i film di Tommy la canaglia? Non è neanche un attore professionista, ti sei visto i film di Tommy la canaglia? Dimmi la verità. Beh, io cerco sempre appena voi mandate un quanti anni hai, Matteo? Quanti anni hai? Ne ho 39. 39, ottimo, ottimo. Sei una persona culturata, comunità ebraica, cioè sì. Persona culturata, laurea, no? Giusto, laurea. Sì. Laura e me. Cosa c'entra la comunità ebraica? E ogni tanto, amico mio, ogni tanto si guarda i video di Tommy la canaglia quando l'abbiamo segnalato. L'avrà fatto per curiosità sociologica. Allora, Massimiliano dalla provincia di Chieti, vai Massimiliano. Dimmi Massimiliano, di. Oh. Mi sentite? E dai, forza, tu togli più la voce e tutto il cazzo. No, nessuno più la voce, Giuseppe. Vai, dimmi. Buonasera a tutti innanzitutto. Non c'è bisogno di dire buonasera perché mi stai su coglioni già, dai. Ok, va bene. Allora, volevo semplicemente intervenire sul discorso della circoncisione. Volevo dire a Parenzo che come sempre sbaglia, non indovina una. Cioè? Il discorso della cabrio. Se permetti, le cabrio sono macchine che si coprono e si scoprono da bisogno. Vabbè, sì, ho capito. Adesso non è che stai a fa il pignolo sulla definizione. È una bellissima definizione, invece. Il pisello, il cazzo cabriolet. Cioè, scoperto. Ho capito, si può anche ricoprire, d'accordo, lo sappiamo. Però non stai a sottilizzare. Su, ma che sei, il giudice di rischiatutto? Assolutamente no. E allora non rompere i coglioni. Il pisello cabriolet è una bella espressione. Non sarà precisissima, perché le cabriolet si possono anche ricoprire. Io non ho detto il pene cabriolet. Io ho detto pisello cabriolet per essere il punto che lui non è cabriolet, sono io, magari sei tu cabriolet, non lui. Lui è completamente, e questo è vero, perché si può ricoprire, d'accordo, ma lui voleva dire scoperto nel senso cabriolet senza copertura, e dai, sul velo per esempio. Io ho detto pisello pelato, pisello col coso, col burca, che non mi pare una conversazione da farsi alle 19:28. Laura da Cremona, l'hai aperta tu alle 18:40, per cui non rompere le mani. Avete Laura chiesto da Cremona della copertina del programma, è stato evocato la circoncisione. Laura da Cremona, dai, forza Laura. E io sono intervenuto. Vai Laura. Laura, Alberto Roma, vai Alberto. Ecco Albertino di Roma, dolce mia. Sì, che c'è Alberto? Allora mi è toccato sentire pure quel negro. Aveva appena mangiato, gli avrei rivomitato addosso. Aspetta. Sua, prima di tutto. Allora, fermo. Chiesto, professore. Aspetta. Sì. Chi è questo erede di De Gasperi? Chi è questo erede di De Gasperi? Albertino da Dolce Ambienza, sì. Aspetta, Albertino, adesso fermi tutti. Ci ricolleghiamo con te fra pochissimo. Albertino da Tor Sapienza. L'annuncio: Albertino da Tor Sapienza. Parenzo. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. Parenzo. È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. One of these days these moods are gonna walk all over you. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Pagiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 00240024, oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Lorenzo, ma chi cazzo ti invita a te? Mi invitano a presenziare. Ma levate la botte sta presupopea, ma scendi dal piedistallo. Ma chi cazzo ti credi di essere? Ma ebreo del cazzo, ma vattene a fanculo, imbecille. Ma lo invitano a presenziare, ma che presenza? Ma arrivatene a fanculo, cretino, stupido, imbecille, imbediota, 7 volte imbecille, 8 volte idiota. Lo invitano a presenziare. Ma chi cazzo te credi da essere, sto cretino? Io ti voglio bene, perché mi offendi così? Allora, mi scrive uno pseudo esperto di queste cose qui che hai evocato. Comunque, tu. Se questo qui non sa cosa vuol dire la parola presenziare, non è mica colpa mia se questo poi è un ignorante sei salame. Ebreo, come vabbè, se fosse un insulto. Sì, appunto. Però ho sentito un sacco di imprecisioni da Parenzo, naturalmente, ma anche da qualche avventore, cioè da qualcuno che chiama, dice questo signore che ha scritto. La circoncisione rende insensibile il glande, già che non potendo più contare sulla copertura del prepuzio, esso glande non è più umettato come dovrebbe essere invece, per cui col tempo diviene calloso. ci guadagna la partner, in quanto il esatto. la partner, in quanto data questa condizione l'orgasmo del circonciso arriva più tardi. Quanto all'igiene, se sarà necessaria normale attenzione alla pulizia del proprio bene, non c'è problema, ovviamente. Se uno è un maiale, lo è anche da circonciso, ma con questa situazione può nasconderlo meglio. Questa è la sintesi, no, che una ha fatto. Sintesi che tu hai trovato come al solito su Wikipedia, sulle enciclopedie online. No, no, mi ha chiamato uno, mi ha scritto uno. Che cazzo è un ignorante, perché se tu devi chiedere ai medici, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non è questo salame di amico tuo. Allora, la pulizia che ti garantisce. Ma dai, su. D'accordo! La circoncisione, la pulizia che ti garantisce la circoncisione è superiore a quelli che hanno tutta quella parte di prepuzio. Su questo non si può discutere, ma perché dipende, è un dato oggettivo. Se uno è pulito comunque, no? Io per esempio non faccio parte, ovvio, non faccio quello, parte tu fai di questa... parte della porcheria comunque. Assolutamente. Fossi circonciso, saresti avvantaggiato, può essere, perché sì. quella, può essere, sì. diciamo, il non avere quella copertura sì. ti garantirebbe qualche giorno in più di autonomia, cioè ti non doccia. Questo è il punto. Bah, però sì. non voglio entrare nel merito. Ma perché... no, ma dobbiamo entrare sempre entrare no, nel merito. No, ma perché sempre. Questi stupidi. Ma entriamo con un medico. Io voglio un medico non ebreo, un medico che, sì. che ti chiama a questo punto. E che c'entra e i medici discute. Adesso? Vabbè. Ecco, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E vabbè, chiamasse quella. Un medico, adesso chiameranno i medici. Dai, su, non rompere i coglioni con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma chi no, se ne frega? Dicono tante puttanate false, pure questi. No. Dai, Albertino. Date informazioni aspetta, false. Albertino da Tor Sapienza, dai. Ecco Albertino. Allora, sì, il prete che ha portato i negri in piscina, non c'erano gli scienziati per capire. Perché ci ha portati? Perché? Poi, tu stai parlando del prete di Pistoia che ha portato le persone di colore in piscina, no? Sì, in sì, siccome quelli dopo si fanno la doccia, non c'erano gli scienziati per capire perché li porta in piscina. Poi signor Don Biancalani, aspetta, non ho capito, perché stai attaccando questo prete, signor Don Biancalani, che ha portato dei rifugiati? Perché cioè, ci hanno potuti portare. E questi preti invece di portarci i poveri italiani, ci portassi i zozzi. Ma perché zozzi? Non ho capito perché devono essere zozzi. Perché sì, molto dico io. Capite, ma noi vieni in periferia, via Torcia Piazza a vedere che fine ancora che stanno a fare queste merde. Allora, ma perché ti sei, scusa, chiamano... perché ti sei scaldato adesso Albertino da Tor Sapienza sulla questione dei neri o negri a Pistoia lì di Don Biancalani? Questi fanno pure i prepotenti, li mortacci loro. Ma questi chi? Ma lei è un prepotente, ma non lo sente come si esprime? Bello ma figo, lei un paese, è... Bello figo, un paese che si rispettava. Quello non arrivava a fare notte. Ma lei è un prepotente. Lei è un prepotente. Guarda come capisce, si esprime. Rozzo. Rozzo. Rozzo. Rozzo. Rozzo. Rozzo. Rozzo. Rozzo e anche zozzo, oltre che rozzo. Che risorse cosiddette da parte di Parenzo, il Papa, e Vauro, e Sofri, queste risorse, Boldrini, queste, secondo me, forse saranno risorse dei loro cui. No, no, ma aspetta, fermo, Alberto. E allora, Albertino, specifico. Per integrare bene a Cazzi Negri, allora, simbolisti del cazzo, imitassero il Marchese Casati. Almeno quelli non vanno a stupire più nessuno e li fanno più felici. No, beh, allora, no, ma aspetta, Albertino da Tor Sapienza, io non ho capito. Da dove stai chiamando in questo momento, Albertino? Da Tor Sapienza, non lo sto chiamando. Che, e poi, che fai e di me? Fermo, io... fermo, che fai di mestiere, Albertino? È il ministro del. Sì, ma che fai di mestiere? È il ministro dell'ambiente, per bombi taglia in faccia. Quella faccia da zabaglione. No, ma poi Albertino, faccia... che cosa fai di mestiere tu? Cosa fai di mestiere? Urla la radio. Adesso. Poi il sindaco, quella faccia da ultimo respiro del sindaco. Ma chi? E quella faccia. Ma sindaco, quale sindaco? Il ministro di interno, del Spectrum, se il ministro di interno. Che quello dovrebbero interno a lui. L'unica cosa che ha fatto buona è una cosa che ha copiato Giorgia Meloni. L'unica posso dirle una cosa? Poi. Lei aspetta, lei ha troppo due cose. Uno, lei è un pensionato e ha troppo tempo libero. Avendo troppo tempo libero, guarda tante televisione stupida e ripete stupidaggini che sente. Perché non va a fare un po' di volontariato dai migranti, così ma impiega meglio il suo tempo? Ma che c'entra il marchese Casati? No, ma il marchese Casati, lei ha troppo tempo libero, mi dia retta, lei ha troppo tempo libero, vada a fare il volontario a Lampedusa, vada a fare il volontario a Lampedusa. Senti, ma a lui, al ministro dell'interno e al sindaco, io le metto col culo sopra i tossici che stanno avvelenare il terzo quartiere. Vabbè, Albertini, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, migliaia delle ragazzini, mortacci loro, ciao. E a me non me ne frega niente. Asmodeo, vai via. Allora, è diventato virale sull'internet, come si dice, no? Sull'internet un video di una filiale di Banca Intesa a Castiglione delle Stiviere, vicino a Verona. Ragazzi, secondo me, alla fine, siccome questa responsabile di questa filiale viene attaccata per avere fatto una pubblicità ridicola al proprio istituto, che è Banca Intesa, attenzione, Banca Intesa sto parlando, è Banca Intesa che regge i cordoni della borsa di molte aziende, Banca Intesa, Banca Intesa, è la banca tua, Longoni, conta Banca Intesa, ottimo, conta Banca Intesa. Io non sono mai nelle main banks, sì. Io non sono nelle main banks, scelgo sempre altri istituti, non gli istituti che vanno per la maggiore. Comunque va bene. Questa signora che cosa fa? Ha fatto un video, ha pubblicato un video un po' ridicolo, devo dire, che però fa discutere di Banca Intesa. Comunque una pubblicità indiretta la fa alla banca, non è che abbia bisogno di pubblicità. Però forse è più forte la pubblicità che viene dal fatto che un video diventa virale piuttosto che la pubblicità istituzionale. Questo può essere. Sentite, sentite. Benvenuti alla filiale Retail di Castiglione delle Stiviere. Io sono Katia Mirardi, la direttrice. Adesso vi presento la mia squadra, anzi, la nostra famiglia, anzi, la nostra grande famiglia. Ciao, sono Roberto. Ciao, sono Emanuela. Ciao, sono Matteo. Ciao, sono Antonella. Ciao, sono Domenico. Ciao, sono Roberta. Ciao, sono Francesco. Allora, quello che è un po' ridicolo è la voce, no? La voce di questa qua. Potete vedere il filmato, che ripeto, adesso ce ne stanno mandando a decine, fermatevi, non ci mandate più al numero nostro di questo video, perché già l'abbiamo fatto. Questa è la nostra piazza, qui è il centro di tutto, perché noi la filiale la interpretiamo così, anzi, la viviamo così, insieme al cliente, perché noi lo accogliamo. Lo accompagniamo alla cassa automatica. Gli presentiamo i prodotti, i servizi e tutte le novità, il sito, le app, perché noi ci crediamo, io ci sto, ci metto la faccia, ci metto la testa e ci metto il mio cuore. Io ci sto, ci metto la faccia. Ci metto la testa, ci metto il mio cuore, ci metto il mio cuore. Beh, amico mio, pubblicità Banca Intesa da parte di un'agenzia, da parte di una filiale, questa signora che si chiama Katia Ghirardi. Secondo te si sono incazzati i dirigenti, per carità, della nobilissima Banca Intesa, uno dei centri più importanti del paese, no? I signori di Banca Intesa. Dovrebbero darle un aumento. Questo non lo so, amico mio, questo non credo. La stanno pigliando per il culo, perché il balletto finale, la canzone finale, oggettivamente è un po' ridicola. La voce sembra... Cioè, voi... Che cosa cioè, hai detto bene tu, forse più di tante blasonate agenzie di comunicazione che ovviamente si fanno pagare tanti soldi, dovrebbero dare un premio a questa simpatica dirigente che si è messa in gioco, non ci vedo nulla di male, anzi. Io ci sto, ci metto la faccia. Ma secondo te, dopo una cosa del genere, uno va a fare e apre un conto in questa filiale? La domanda è: affidereste i vostri soldi a una simpatica signora che canta Io ci sto? Ma forse la domanda è stupida, quindi non ha senso. Ha vinto lei, se è virale ha vinto lei, brava. Allora, Abemus, telefono di uno dei protagonisti della vicenda del treno preso in ostaggio da una baby gang di nigeriani, baby mi gang. Sono impicciato. Baby gang. No, perché ho mangiato un cazzo di noce. Bush rischiò una piccola noce, Bush rischiò di morire, come no, tu sai, una, come una tu cosa ricorderai. Così mi è rimasta una cosa qua nella gola, vaffanculo. Bush rischiò di morire. Sono le noci del cazzo di Longoni, la frutta secca di Longoni, una noce, capito? Mi è rimasta qui, me ne sono mangiate due o tre così per ingordigia. Bush rischiò di morire. E mi è rimasta una cosa nella gola, mi ha fatto impicciare sulla baby gang. Chiamiamo questo signore, credo che sia un imprenditore di 57 anni di bassa grappa. Pronto? Signor Roberto? Chi parla? Salve, buonasera, qui Radio 24, salve. Sono Cruciani, salve, buonasera. Cruciani, buonasera. Buonasera, c'è anche Parenzo, salve. Volevamo che lei ci raccontasse un po' quello che è successo sul treno. Era il treno di mia moglie, avevamo fatto 8 ore alla Biennale, eravamo stanchi morti, stavamo dormendo in cabina del treno. Sì, ecco. Sì. Poi che succede? No, succede che a Castelfranco, praticamente sì. La fermata è intorno alle 9:30, credo, sì. Si sono aperte le porte sì. E da lì un trambusto dal dormiveglia, siamo stati svegliati da questi 5-6 giovani, subito chiaramente abbiamo visto che erano ubriachi, sì. Perché avevano bottiglie di alcol in mano tutti, sì. Sigarette, sì. Urlavano. Sì. E lì per lì mi ero girato dall'altra, se non che con i passeggeri delle sedie lì vicino abbiamo visto che stavano spintonando un altro ragazzo. Mm. Okay? Allora lì cosa fai? Sentiamo delle urla con le storie e decidiamo di andare a vedere cosa succede, perché magari c'è uno e abbiamo aiuto, no? Okay? Sì. Non avevo voglia, ma siamo andati lì, chi c'era, e hanno cominciato a dire a sti ragazzi alterati: state calmi, sì. Siamo amici, qui ci sono donne e bambini, queste le liti le fate da un'altra parte, le sigarette non potete usarle nel treno, perché ma più che il fumo era il problema, era l'alcol, il problema era che questi erano ubriachi, gli occhi no, ma ubriachi sì, ma anche infatti, ma erano stranieri? Questi erano chiaramente nordafricani, ecco. Oh. Non volevo dirlo, ma l'ho detto, ma nel senso che insomma quelli erano. Quelli no, erano, vabbè, certo. Erano. Non è che uno può negare la realtà. Fatto sta che erano ubriachi, hanno cominciato a spintonare. Non appena siamo arrivati lì per calmare gli animi, questi hanno cominciato a dire: fatti i cazzi tuoi, ti spacco la faccia, ma chi sei? E c'era un parapiglia. Ma vi hanno minacciato? No, ma certo, a me stesso mi hanno minacciato, io ero dietro 2 o 3 metri, però a questo punto adesso faccio un filmato, perché insomma... Sì. E quando mi ha visto mi ha detto: tu col telefono, dice, metti via che ti spacco la faccia, ti ammazzo che fai le riprese, dico. Mm. Io le ho fatte lo stesso, perché mi sembrava giusto farle, anche certo. Perché... Bravo, eroico. Il cavolo eroico, io volevo starmene là a dormire. Sua moglie invece, dov'era? Bravo. Sua moglie è rimasta seduta? Mia moglie è venuta a vedere, perché è preoccupata anche lei. Sì? Insomma, la situazione era un po' tanto fuori controllo. Ma questi concretamente, a parte litigare tra di loro, che facevano? Danneggiavano la vettura? Hanno sputato no. addosso, ho letto da qualche parte, no, hanno minacciato il capotreno? Da capotreno non si è visto per mezz'ora, si è materializzato dopo mezz'ora. Ma ho pensato, magari queste scene le vede tutti i giorni il capotreno, e magari è lì che se la fa addosso. Mm. E c'erano dei papà, delle mamme da Castelfranco Veneto. Appena arrivati là, vai parolacce, ti spacco la faccia, vai a fanculo, a me non far le foto, se no ti ammazzo. Tra di loro erano molto esagitati, perché c'è stato un parapiglia tra di loro, perché qualcuno ha detto: scappiamo, stanno facendo il filmato. Mm. E a quel punto lì sono partiti sputi e calci, mm. Okay? Mm. Calci a questi che cercavano di calmare gli animi, no? Mm. E poi a un certo punto uno di questi, alterato, deve aver preso un estintore. Sì. Che lo voleva usare come arma, ma poi l'estintore si è attivato e ha sporcato tutta la cabina, infatti dopo si scivolava alla fine. Ma in tutto questo il treno continuava ad andare, non si è fermato? Difatti è arrivato a Castello di Godego, che è la fermata successiva, sì. E lì si è fermato il treno e lì si è bloccato per almeno un'ora. Questo fatto qua. Un'ora. Ma com'è finita la storia? Quando sono scesi questi? Quando se ne sono andati? Questi appena il treno si è fermato, quando sono arrivati i carabinieri che hanno visto le luci, questi se lo sono data. Dunque praticamente nessuno li ha fermati in realtà, non sono stati arrestati, nessuno li ha fermati. Dunque voi siete rimasti in questa situazione praticamente in balia di queste persone, di questa baby gang di Nord Africa? Per mezz'ora almeno. Poteva succedere di tutto in quella mezz'ora. Abbiamo schiacciato quel pulsantino dell'SOS che dovrebbe funzionare. Nessuna risposta. Almeno 10 persone hanno provato a accionarlo. Nessuno muto. Ha chiamato la polizia con i telefonini? Certo che è stata chiamata la polizia e certo che sono stati chiamati i carabinieri. Sono arrivati dopo mezz'ora, 40 minuti i carabinieri, ma ormai erano già spariti questi, ha capito come? E lei è uno di quelli che pensa che questa situazione qua sia colpa dell'arrivo degli stranieri in Italia? Oppure... Guarda che questi qua, in quanto minorenni, la prossima volta ce li ritroviamo nel treno. Mi ha telefonato prima Belpietro, dico ma cosa vuoi che mi metta io la faccia mia in televisione, che la prossima cosa ho da guadagnare dalla vostra parte? Ti hanno chiamato subito. Mi hanno chiamato, ma io non vengo in televisione. Cosa ci guadagno in televisione? Sarà compito del Treni Italia. Le telecamere le hanno, funzionavano, cioè se non funzionava l'SOS, mi viene il dubbio che funzionassero anche le telecamere a quel punto. Roberto, se tu riconoscessi qualcuno di questi qua, lo denunceresti? Io ho già dato il mio contributo, guarda, io ho già problemi di famiglia, di lavoro, e quella doveva essere una roba rilassante, cioè oggi sono qua, un po' nervoso, questa cosa qua, cioè io mi domando, ma chi me la fa fare? Vado in palestra e non rispondo più a nessuno, che così è finita. È un attimo andare in mezzo alle grane, perché questi ragazzi giovani, soprattutto, e poi in quanto nordafricani magari uno rischia, terrorizzato, di essere tacciato cose, storie, perché magari qua c'è un clima di caccia alle streghe che è incredibile in questo paese qua. Cioè dice, il fatto che uno denuncia questi qua rischia di passare per razzista, dice. Io non sono razzista per niente, però non voglio neanche avere delle grani, saprei vivere tranquillo. Questa la denuncia, se c'è da fare la farò. Ma vorrei evitarmi, andare dai carabinieri che poi mi chiedono la trafila, sappiamo qual è. Però se uno vuole che questi qua non facciano più le cose, deve denunciare. Non è possibile che una persona per bene così venga molestata, una persona, ma come nessun altro. Questo signore qui è andato a una mostra meravigliosa, qual è la Biennale, si è ripreso il suo trenino, stava tornando a casa sua, ha subito un'ingiustizia pazzesca, ha preso paura e queste persone devono pagare. Non ce ne frega niente se siano bianchi. Questo è importante, perché alcune cose avvengono nei treni regionali. Sono dei criminali. Sì, nei treni regionali avvengono delle cose soprattutto da parte di persone di colore, da parte ma di non immigrati. Lo so, questa persona è una persona per bene, maggioranza silenziosa, va alle mostre, vedi, va alla Biennale. Ma che c'entra adesso questo? È una persona per bene. Va bene, grazie. Sì, grazie. Caro David, hai capito? Treni presi d'assalto per 40 minuti ora. Dico, ragazzi, vorrei vedere te dentro un treno regionale, cosa che tu non prendi. No, ogni circondato, chiuso da una baby gang. È una cosa pazzesca che ha subito questo poveretto, questo bravo cittadino italiano. È una cosa incredibile, terribile. Ma non c'è nulla da difendere, niente. No, mi sembrava che mettesse in discussione l'esistenza delle baby gang di africani. Ma figuriamoci, esistono come le baby gang. Dopodiché voglio tornare sul tema del giorno, sulla notizia pazzesca di questa giornata, alla quale non abbiamo dato risalto. Qual è? Il killer di Las Vegas, il bianco killer di Las Vegas, era un muezzin, non era muslim come dici tu, aveva 42 armi. Allora, vabbè, io fossi 42 armi. Pazienza. Allora, io non è colpa del signor Trump. Non è la colpa. Fossi il signor Trump, anzi, beh, io mi interrogherei. Anziché se uno ha 42 armi a casa, è un arsenale. Allora... No, fossi in Trump, non mi preoccuperei tanto dei musulmani del o di fare delle leggi contro i musulmani. Ecco. Farei delle leggi per limitare l'accesso a comprarsi. Non cambia niente, la cultura americana è quella, se ne fottono di 33.000 morti o quelli che... No, è quella niente, perché Obama, Obama aveva fatto una legge meravigliosa, Obama, aveva morto, fatto. Morto, proprio per morto, limitare le morto, armi, è finito, l'uso Obama, delle armi. Finito. Io ci metto la faccia. La zanzara. Vai Parenzo, sei tutti noi, l'arresto dei fascisti e il ripristino dello Stato democratico. Vai Parenzo, uno della maggioranza silenziosa, combatti per noi. Parenzo, prima di criticare la destra, Mussolini, fai sempre il linguaccione. Guarda quello che cazzo avete fatto e state a fa' voi in Palestina e fatevi un esame di coscienza, che non è che siete tanto diversi. Parenzo, visto che i Rom sono tuoi amici, dagli pure l'indirizzo di casa tua, così vengono, riempiono il sacco e li aiuti un po' a mangiare, un po' a mangiare, un po' a mangiare. Se penso che un euro del mio sudore di tasse va ai Rom, veramente mi ci piglia male. Zero euro per voi, zero euro for you. Cazzo ragazzi, sveglia! Ragazzi, quello che dice questo ascoltatore è assolutamente vero. Cioè, non bisogna nemmeno concepire l'idea di dare soldi pubblici ai signori Rom, che sono assolutamente privilegiati rispetto a tanti altri. Spesso nei campi hanno tutte cose gratis, certo vivono... No, vanno investiti dei soldi per risolvere la questione, non cioè c'è nessuno, per metterli non a c'è norma, ma non c'è niente da risolvere, non e c'è costruire una edilizia popolare in grado di integrarli. Ma quella vanno pagati, ma va fatto seriamente, vanno mandati i bambini a scuola. Amico mio, se non li mandano bisogna togliere i bambini. Questo capito, come fanno, come fanno? Una grande bomba sociale che io vorrei tu affrontassi sociale? In modo più ragionevole e meno di pancia. No, niente soldi, vorrei che niente tu... soldi, niente quattrini nostri, niente soldi dello Stato, niente soldi dei comuni. Fermo scusami, là, però voglio io fare... pago le tasse per pagare la sanità anche a questi quattro ubriaconi che chiamano però. Ma cosa perché c'entra? Qui mi segnalano, ad esempio... Ma questi voglio pagano le tasse, quelli che chiamano qui, la maggior parte territorio. Pagano le tasse. Mi ha scritto l'avvocato Trucco poco fa, notizie dal territorio, mi ha scritto... Sono a Treviso, oggi tutto ok, solo un ubriacone, chiaramente veneto, alla stazione. Nigeriani molti, ma tutti molto tranquilli. Dai, allora, sono queste le cazzate cronache, di Trucco, le cazzate no, di Trucco. Queste dai. Cronache, vorrei... grazie, continuate a scrivermi amici. Cioè, il racconto del territorio è questo qua, capito? Il racconto. C'era un ubriacone a Treviso, ma era un trevigiano, ma non so se trevigiano, dai, ma sicuramente... Su. Questo dicendo... ha visto e documentato l'avvocato ma Trucco, che è una persona... notoriamente per me stai dicendo il problema messaggio. Di Treviso stai dicendo a Treviso i problemi sono soprattutto degli ubriaconi trevigiani. Beh, e non degli immigrati. Alcuni ubriaconi ci sono, alcuni ma ubriaconi quando se mai non mi nelle aziende del nord est lavorano un sacco di immigrati. Allora, ma come ma va voglio fare, ma come ma va? Certo, sei certo, un distruttore certo, di imprese ma certo, certo che lavorano tanti immigrati, ma chi dice il contrario? E perfettamente inseriti nel bene, tessuto se lavorano, sociale non c'è problema. Pensa a Paco. Fermo. L'ottimo Paco, l'ottimo Paco, non so Paco se lavora. Allora ragazzi, ieri sera è intervenuto una signora vegana, la signora Balducci, che è quella che è indignata, ha fatto una protesta ufficiale, diciamo così, sull'acquario di Fabio Fazio. Sentite le castronerie, le boiate che ha detto. Qual è il problema di avere dei pesci dentro un acquario, scusi? Il problema di avere dei pesci dentro un acquario è come mettere una persona in una gabbia. Sarebbe praticamente la stessa cosa come se si dicesse che pure io devo stare chiusa dentro casa in una bellissima gabbia d'oro che potrebbe essere una casa, così evito di uscire per finire sotto le macchine. Ma che ragionamento è? Ma scusi, ma lei sta dicendo che un pesce è uguale a mia figlia, un pesce uguale a Renata Balducci, un pesce uguale a Giuseppe Cruciani? Non è uguale a me, ma come no? Respira in maniera diversa e poi non è uguale a me, perché soprattutto cioè, la vita di un pesce, la vita di un pesce ha lo stesso, la vita di ogni essere vivente ha lo stesso identico valore. L'acquario in prima serata sulla Rai è diseducativo, bisogna chiudere l'acquario di Genova, ragazzi, ma questi qua stanno veramente alla frutta, Scusi, io non capisco Fazio perché dovrebbe togliere quell'acquario. Io provo indignazione perché vedo degli esseri che vengono addirittura messi in prima serata. Bellissimo, in una stupendo. E tutte le persone vedono qualcosa che è diseducativo. Ah, diseducativo vedere i pesci dentro pesci un acquario? Nell'acquario, certo, sono fatte tanti. Scusi, ma lei non è aggiornato sulle proteste che sono state fatte all'acquario di Genova? Ah, lei lo vorrebbe chiudere? Lei lo vorrebbe chiudere? Certo. Antonio, provincia di Frosinone, vai Antonio, vai Antonio, vai, vai Antonio. Salve, buonasera. Dimmi Antonio, io dimmi. Volevo dirti così, no, che tu sei un grandissimo pezzo di merda. Sì, va bene, d'accordo, però fatti okay, sentire, no, ma aspetta, non ti sento bene, aspetta, parla, unione, parla unione, bene. Non ti muovere, vedi, io ti chiamo per nome. Antonio, vedi? Antonio, vedi sì. Tu mi chiami Antonio, sì. Io ti chiamo Guglione. Ma sì, ma fai quello che vuoi, ma fai quello che ti vuoi. Ce l'è anche per te, finalmente. Sì, Antonio, fermo un attimo, io però ti vorrei sentire bene, dunque fermati con la macchina, però dimmelo con bene. Con la macchina, io ti butterei sotto, io ho un treno, ti ammazzo. Ammazzerei davanti alle ruote come un cane, pezzo di merda. Sì, sì, sì, sì. Stai rovinando tutti. Tu sei il primo, mi sembra, no? Tutti stai rovinando. Sto rovinando. Mi attribuisci troppo potere, amico mio. Allora, te devi capire una cosa. Te devi capire una cosa. Sì, te lo dico così. Perché sì. Uno straniero viene qua e non rispetta le leggi, bisogna buttarlo fuori. La colpa non è degli altri che si comportano bene, ma la colpa è di quel coglione che magari ha violentato quella ragazza, ha stuprato un treno, ha fatto. Buttatelo fuori, non rompete più coglioni. È quello che dico io, dunque? Perché devi mettere la gente? Perché tu devi istigare ad andare a schiavare davanti alla posta? Ma come cazzo ti permette? Un'altra pezzo cosa. Di merda. Bravo, vedi, lui con ma un linguaggio secco. Tu c'hai le palle sotto. Allora, Antonio, la discussione. A me pare che questo qui abbia una cosa importante, ma la responsabilità penale è personale. Cazzo, Parenzio, tu per lavorare con questo qua significa che non servi proprio. Ma cosa dice? Perché come tu stai una persona ragione. Seria, butteresti questo qua fuori dai coglioni, capito? Ma che buttare? Ma lei stai scusi, non ragioniamo, tu argomentiamo. Tu devi andare in Israele, te ne devi andare dove cazzo ti pare. Non puoi stare qua, te lo dico io. Ma questo è un cretino. Scemo, ma come ti permetti? Ma che dice? Io ho detto che ha ragione. Come mi permetto? Ma voi siete due ignoranti, Sid, come mi permette? Allora, no, io stavo dicendo che lei è una brava persona. A me lei sembrava una brava non persona. Non è una brava persona, si è capito sin dall'inizio che era un cretino. Allora, Antonio, però anche i cretini hanno diritto di parlare. Antonio, quando senti, dice... Senti, che pezzo di merda. Ma perché pezzo di merda? Io non capisco, ma spiegami perché. Pezzo di merda. Ma perché? Ti spiegami. Sto dicendo così. Ma perché? Ti spiegami. Sto dicendo così. Sì. Se una persona non è corretta, bisogna sbatterla fuori. E siamo d'accordo. Ma le persone brave bisogna tutelarli. Dipende, quale? Ma coglione. Cosa c'entra? Che significa che le persone brave? Base, giusto, ma cosa giusto, vuol dire ma le persone? Ma ogni volta che parli degli immigrati neri, ma che cazzo sei? Sì. Bisogna mettere le cose a posto. E sì, la colpa è nostra se noi Antonio, abbiamo una politica diversa. Ma che politica? Perché se stavano in Spagna questi qua, o in Francia, li buttavano fuori. Ma questo... E te non ti serveva la radio, capito che te voglio dire? Ma perché non posso dire le cose che penso alla radio? Spiegami, Antonio. No, ti sto dicendo così. Sì, non stavano in Italia, perché in Italia purtroppo si fa a campacavallo. A campacavallo. Sì, fuori. In Italia quando si fa a campacavallo. Quando fermavano un treno, quando quello fermava, si buttavano tutti fuori. Non ma dove? C'era non c'era la gente per buttarli fuori. Cretino, non c'era la gente. Non c'era nessuno per buttarli fuori dal treno. Imbecille, non sai nulla. Cretino, poveraccio, non sai nulla. Imbecille. Non ci stanno i carabinieri. Che c'è? Ci stai solo tu allora, fammi capire. Antonio, forse non hai sentito anche bene. Su la polizia ragione, non è intervenuta. Allora, quando sono arrivati i carabinieri, quelli se ne sono andati. Sul treno non c'è stato nessuno per mezz'ora, 40 minuti. Il capotreno si è presentato solo alla fine. Perché siamo dei coglioni, ecco perché. Perché non ci abbiamo le palle sotto. Antonio, perché. Antonio, il primo non avere le palle. Facciamo anche scappare a casa nostra. Il primo non avere le palle, mi sa che sei tu. Il primo non avere le palle. Ce l'ho da mettertele in bocca e no, devo quello farti parlare per un mese. No, non sono, non mi piace l'attrezzo, non mi piace. Il tuo attrezzo, piccolo non mi piace. Il tuo persona seria. Il tuo piccolo attrezzo, il tuo piccolo attrezzo non mi piace. No, ma fai la persona il tuo piccolo attrezzo schifo, non mi piace, io faccio schifo. Io mi scuso con Parenzo perché è una persona bravissima, era soltanto una rabbia, però tu fai schifo. Grazie. Proprio, ma guarda, perché farei schifo? Se è una cosa insopportabile, se non so come, ma che cazzo ti paga? Quello è il problema per dire questo stronzato. Sì, Antonio, ma che cazzo ti paga? Antonio, sono contento di questa telefonata. Sono contento di questa telefonata. Sono contento di questa telefonata da parte dell'imbecille Antonio della provincia di Frosinone che mi ha chiamato coglione, pezzo di merda. Beh, perché, però non trattarlo così, perché in fondo ha fatto una riflessione giusta. Perché a un certo punto. Ci sono tante situazioni difficili in Italia, tante situazioni psicologiche, tante situazioni di frustrazione, di rabbia, che noi aiutiamo in qualche modo a contenere, no? Aiutiamo a contenere. Questo è fondamentale. Nadia da Milano, vai Nadia. Pronto, Zangarosi. Ciao, Nadia, tranquilla. Ciao. Chiudi tutto, amica mia. È chiuso tutto, non ti preoccupare. Vai, dimmi. Ascolta, Giuseppe, non ti ricordi di me, eh? No, ma come faccio a ricordarmi di te, amica mia? Hai ragione, sono Nadia la trans dalle mille doti vocali. Sì, quella che cambia, che cambia voce. ma sei tu che hai cambiato voce? È certo che sono io, chi deve essere? Sei la trans che cambia voce? Esatto, sì, sono io, non ti ricordi? Adesso parlami da maschio, ma ce l'hai ancora l'uccello? Ancora sì, purtroppo. No, ma cambia, dimmelo come da uomo. Ancora sì, purtroppo. Ma straordinario, ma Parenzo, persone, te la ricordi? Dai. No, ma è lei, è la stessa persona. Ma no, perso- ma sono due persone. No, non c'era Parenzo, quando chiamai quella volta non c'era il Parenzone. Ma non c'era, sì, poi ha risentito poi Parenzone, dopo. Parenzone, come si permette? Ma Parenzone, non ci conosciamo. Ha detto che sei figlio di puttana, ti ha detto Parenzone, non è che ti ha detto chissà che. Come si permette questa intimità? Ma no, ma questa questa intimità la può avere chi mi conosce bene, chiamarmi Parenzone, Parenzino, Parenzo. Che ma non devi chiamare, chiedi scusa per averla chiamato Parenzone, no, ma sei impazzita, voglio dire, ho tante persone che mi chiamano in diversi Parenzo oppure Parenzino, Parenzone, ma la signora non ci siamo però, mai conosciuti. Dato che hai chiamato Nadia, poi ti faccio dire quello che volevi dire. Sì. Ma esiste il tucking o tucking, una cosa di questo tipo. Adesso non so bene se la pratica per nascondere pene e testicoli tra le gambe, il metodo utilizzato da molte transessuali che non vogliono essere identificate con il loro pisello. Effettivamente alcune transessuali che ho conosciuto io, per non far notare il pisello che hanno, lo comprimono praticamente con una specie di mutanda rinforzata. Ho scoperto che si chiama tucking. Com'è che si dice? Scusami Nadia. Sì, si chiama tucking. Ma tu lo usi? No, io non lo uso. Comunque è una pratica che viene utilizzata principalmente quando vai sulle spiagge, quando sei in bikini o comunque sei in un abbigliamento un po', come dire, non usuale. Sì, ho capito. Cioè, praticamente, ma lo fai anche tu in spiaggia o no? No, non lo faccio perché per mia fortuna le misure sono particolarmente ridotte. Ah sì, perché tu avevi un pisello molto piccolo? Sì, esatto. Quindi poi con la cura ormonale si è ridotto ancora di più. Cioè, che cos'è? Una specie di siamo ai pochi centimetri, quant'è? Non lo so. Sì, eh. Siamo ai pochi centimetri, siamo intorno ai 5-6 più o meno. 5-6 centimetri? Sì. Ma questo sin dall'inizio, sin da quando sei nata così? No, prima arrivava a 10. Sì, mo adesso sei rimpicciolito, dai, su, non ci credo. Dottore, informo, perché lì è in onda, dottore, perché lì è rimanga bene appellitivo, dottore, ma che porcherie? È Nadia che ci sta spiegando, cambia un attimo voce, dimmelo da uomo, Nadia, quanto Parenzo, ce l'hai. Aspetta un attimo, Parenzo, ascoltami. Guarda che io svolgo un lavoro di infermiere. È inquietante, okay? Questa quindi sinceramente posso parlare con una certa cognizione di causa. Cioè, Nadia, la meglio la voce femminile. Nadia, no, è più bella questa. Nadia, fai l'infermiere di professione. Perché non me lo tu ricordo. Sei un maiale nell'anima. Sì, proprio. Fai l'infermiere. Tra l'altro a pochi metri dalla vostra redazione, quindi. Ma quale redazione, scusa? Ah, qua a Milano. Sì, esatto. Sì, sono lì vicino. Perché non ci vieni a trovare qualche volta qui? Che volte vengo a trovare? Scusami, però poi mi devi far cambiare voce in continuazione, che sennò poi non c'è divertimento. Sì, scusami Nadia, io non ho capito una cosa. Tu hai mai fatto la prostituta? No, però io proprio di questo volevo parlare. Cioè? Volevo parlare dell'ordinanza di Nardella. So che indignerò profondamente Parenzo, però quello che va detto va detto. Ascolta, io praticamente sono anni che sento parlare di associazioni che cercano di stimolare, in qualche modo promuovere un'attività che da poco sembra prendendo piede, che è quello di socio operatore sessuale. Cioè, tu lo faresti? Per le persone disabili. Aiuteresti i disabili a fare sesso? Se avessi stomaco, sì. Se avessi il pelo sullo stomaco, sì. Te lo confermo. A pagamento, magari non è... A pagamento. Beh, pagamento. Ma ce l'hai o no? Cui... Ce l'hai o no il pelo sullo stomaco? No, purtroppo no. Non ce l'ho, altrimenti se no avrei magari sfruttato quel tipo di professione che è sicuramente molto più remunerativa. E dunque? Però, cioè, e perché, dunque ci, perché ci vuoi parlare di questa cosa? Cioè dei disabili? Perché, cioè... voglio dire che proprio in merito a quello che è successo con Nardella, con la sua ordinanza e con la cultura grezza e bigotta che c'è ancora in Italia, si evita che personaggi o persone che vogliono comunque intraprendere questa professione, che secondo me è nobile, perché nei confronti dei disabili bisogna pensare anche a soddisfare i loro bisogni, delle bestie. Ma non solo nei confronti dei disabili, guarda. Vabbè, ma che vuoi dire a Nardella? Solo, lancia però... un messaggio a Nardella. Allora, a Nardella gli dico, sei un gran ione. Sei un gran perché coglione impedisce. Perché impedisce a persone che possano avere una professionalità riconosciuta in modo tale da svolgere quel tipo di lavoro nei confronti di persone bisognose, piuttosto invece che far sì che le famiglie di queste persone debbano rivolgersi in nero a persone che professionalità non ne hanno. Vabbè, adesso perché questo alla fine succede così. Alla fine sei contro la punizione dei clienti delle prostitute, cara Nadia. Ti abbraccio, vienimi a trovare presto. Ciao Nadia. Ciao Nadia. Ciao. Arrivederci, scusa, signora. Chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. In diretta sono. Cruciani, scommettiamo che se chiedi a quell'ascoltatrice che ha contestato l'acquario, scommettiamo che ha un cane o un gatto in casa? Ciao. Sono pesci rossi quelli di Fazio. Dove cazzo li vuoi liberare? Dove cazzo li vuoi liberare che nascono in cattività? Ma che cazzo di vegani sono questi? Sono ignoranti come belve. Cruciani, di ai tuoi amici vegani che un mio amico aveva l'acquario col piranha a cui dava da mangiare i pesciolini rossi vivi. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Zanzara. Parenzo, ti voglio carico! Bravo Cruciani, cos'è che dobbiamo offrire ai rom? Ma porca miseria, a me non mi offre niente nessuno, io lavoro da 41 anni, nessuno mi regala niente. Questi che sono degli zozzoni, come dice la signora e c'ha ragione, che vanno in giro a rubare, che ne fanno di tutti i colori, dobbiamo anche aiutarli. Ma in base a che cosa dobbiamo aiutarli? Diglielo a quel a Parenzo, va, lasciamo stare, Paolo da Varese. Allora, caro David, abbiamo qui in collegamento uno dei tuoi politici preferiti, diciamo, no? L'ex ministro dell'integrazione, la signora Cécile Kyenge. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, cara, intanto fatemi dire grazie Cécile per tutto quello che ha fatto per il nostro paese. Ma che c'entra? E grazie perché lei ha subito da anni, da quando si è esposta, è entrata in politica, ha fatto il ministro, una quantità di attacchi che una persona normale non avrebbe avuto la forza di sostenere. Ah. Quindi la abbraccio e la ringrazio a nome di tutta l'Italia. Ma che a nome e di sono chi? A nome tanti tuo? A nome tuo. Che ti sostengono, cara Cécile. Grazie e continua mille, così. Ma perché grazie. Non lo assumi come no, tu? Ma lo dico sul serio, sì. Guarda. Perché non lo abbiamo guarda, bisogno che di sono più Cécile. Perché più Cécile meno marcato. Più Cécile meno allora, marcato. Allora, perché non lo assumi come tuo portavoce? No, ma io lo farei gratuitamente, guarda, gratuitamente. Fai... Lo farei. Io sarei soltanto onorata di avere Parenzo, insomma, con me. Guarda, proprio lo dico sinceramente, non è semplicemente lui che mi fa questi complimenti, che anche io e ho lo stesso rispetto per lui, cioè so che uno dei giornalisti più bravi e lo seguo, lo guardo. Ah, bene, capisco questo quest'antante che vedi. Scusa, Cecilia, da dove ci stai? Io guarda, ti dico questo, se torna a fare il ministro, io gratuitamente, e sai cosa vuol dire per me la parola gratuito, farò il suo portavoce se lei vuole. Pensate come gratis per lei. Allora, non ho capito lei, una cosa, scusami Cecilia, tu hai intenzione di candidarti in Italia? No, in questo momento no, io sono al Parlamento Europeo e finisco. Sì, ho capito, ma hai intenzione di candidarti alle prossime elezioni politiche in Italia? E abbiamo bisogno al Parlamento italiano. Io in questo momento no, però Cruciani, a volte se il dovere chiama bisogna rispondere. E dunque? Di sì. Non ho capito. In questo momento sono al Parlamento Europeo. Vabbè, ma questo lo sappiamo, alle prossime elezioni politiche in Italia hai intenzione di candidarti qui, sì o no? Ti piacerebbe fare il parlamentare in Italia, un nero in Parlamento? Non so se c'è stato qualche volta. Ma come no? No, non c'è più, c'è nella scorsa legislatura. L'ho capito, ma lo faresti o no? Ma da dove ci stai chiamando? Richiamiamo un attimo la gang, non si sente la mazza, dai ragazzi. Allora, Lucio da Cosenza, vai Lucio, vai. Sì. Dimmi, ciao. Lucio, dimmi. Allora, io chiamo da medico, volevo fare un intervento serio in merito alla circoncisione. Dai. Ma figurati. Volevo deludere Parenzo, perché il prepuzio è una protezione del glande che nel tempo mantiene l'epitelio stratificato ma non corneificato. Ma figurati. Non cheratinizzato, nel senso che la sensibilità di chi ha il prepuzio è molto maggiore di chi non ce l'ha. Del resto, se la natura ce l'ha fornito, qualche motivo ci sarà. Questo è vero, se la natura ci ha fornito il prepuzio, servirà qualche cosa. La natura no? Purtroppo ci ha fornito anche di Donato da Varese a proposito di prepuzi. E quindi chiaro, non tutto ciò che è in natura è chiaro, funzionale. Per l'igiene, che se uno ha la fimosi, in quel caso bisogna intervenire, ma è una menomazione. Non è una cosa buona, perché come dire, io sono convinto se ce l'abbiamo significa che qualcosa funzionerà, no? Cioè, io ho 57 anni, no? Non ho avuto la fimosi, per cui con l'uso negli anni chiaramente il glande adesso spesso è spontaneamente fuori, diciamo, no? Sì, perché certo. I tessuti e la sensibilità è molto minore, perché stando all'aria chiaramente si può intuire che le cose cambiano, quindi Parenzo per questioni religiose è circonciso, ma si perde molto. Perché mi dite che si gode meno? Si gode meno che vuol dire? Con, cioè, ha meno sensibilità con che cosa? Cioè con senza. E dunque si gode meno e per questo magari può ritardare l'eiaculazione, però si gode meno, non c'è dubbio su questo, il piacere è minore, certo. Signora Chieng, lei è collegata? Sì, sono tornata, sono qua. È tornata, benissimo. Allora io voglio capire una cosa, come fa a dire che il wifi, io innanzitutto chiariamo una cosa, se qualcuno le chiede di candidarsi in Italia si candida, sì o no? Certo, certo che sì. Se è un dovere per il paese lo faccio, ma in questo momento che sto facendo un dovere per il paese al Parlamento. Questo lo sappiamo. Se serve, sì, se serve. Le farebbe piacere. Sto seguendo dei temi molto importanti per il D'accordo. Paese. Credo le piacerebbe fare il parlamentare la prossima legislatura in Italia? Ma guarda, mi trovo benissimo al Parlamento Europeo, per cui insomma in questo momento non lascio il Parlamento Europeo e l'ho specificato. Ma se qualcuno, dice che devi candidare in Italia, ti candidi o no? Perché no? Va bene, ma il wifi diritto umano, che vuol dire il wifi come diritto umano? Ma siamo giusto, pazzi? Internet diritto umano, ma che vuol dire? È fondamentale, cioè, gli stranieri che arrivano ragazzi qui che arrivano. Hanno diritto al wifi? Ma certo, che problema c'è? Sì, ma penso che questa cosa qui, che non dovrebbe neanche sembrare uno scandalo, perché la risoluzione delle Nazioni Unite dice proprio che è un diritto per tutti. Ma che c'entra il diritto per tutti? Ma perché? Per tutti. Cioè senza il wifi, questi qua che arrivano, i profughi o richiedenti asilo, richiedenti non felicità, non possono chiamare a casa, no? È fondamentale che abbiano wifi? Guarda, è fondamentale, perché se c'è la possibilità di comunicare, perché il diritto di... confessarsi, di sentirsi sentire i propri familiari, cioè di parlare. È un diritto per tutti, c'è, cioè la connettività, ma ho capito, è un bene essenziale. Però, signora Chieng, le voglio far presente che molti italiani, compreso il sottoscritto, pagano per il wifi. Perché questi non dovrebbero pagare il wifi? Spiegami. Guarda, non è che dico il contrario, perché quando io dico la connettività è un bene essenziale, esistono, capito, anche dei luoghi che il comune mette a disposizione delle persone che non hanno la possibilità, sì, di, ho capito, poter pagare. Ma perché sono un diritto, ma perché un diritto umano? E questa è la cosa assurda, come tra i diritti umani la connessione wifi per i migranti, ma che vuol dire? Cioè, è un'assurdità, cioè, non è un'assurdità, ma la gente non c'ha manco i soldi per piangere, uno arriva i migranti e deve dare wifi storia, ma cosa vuol dire? perché uno lo sta collegando direttamente al lusso di avere, non so, ma non è lusso, non ho detto lusso, ho detto semplicemente che non è che uno può dire un diritto umano, cioè è così. Cioè un diritto umano, è così, perché in qualche modo la risoluzione parla proprio del... Ma che c'entra la risoluzione? Non c'entra niente, certo, la risoluzione. Certo. Io vorrei capire una cosa. Vorrei capire una cosa. Non è che parla specificatamente dei migranti, parla di tutti. Sì, va bene, però Cecilia, vorrei capire... dobbiamo estrarre i migranti. Non vorrei capire una cosa. In un'Italia governata, mettiamo un esempio, no? Tra un'Italia governata da Salvini e un'Italia governata dal Papa, chi preferiresti tu? Ma senza dubbio, non c'è neanche da scegliere. No, dimmi. Il Papa. Perché devo scegliere Salvini. Cioè, ma non lo so, Salvini fa il politico, il Papa è il capo di uno Stato straniero, per esempio. Cioè, ho capito, il Papa, se devo scegliere qualcuno al Vaticano, scelgo qualcuno al Vaticano che dirige meglio. Cioè, tra il Papa e Salvini, meglio, se dovessi scegliere chi governa l'Italia, è meglio il Papa, non c'è dubbio. No, cioè, chi governa l'Italia, deve governare un politico, ma se dovessi essere messa, non scelgo Salvini. Messa di fronte a una scelta, il Papa o Salvini per governare l'Italia, scelgo il Papa, hai detto. Vabbè, scelgo capito. Il Papa. Sì, fermi sì, tutti, fermi, fermi, fermi, fermi. Adesso la voce. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la Zanzara. È stato Mattarella a dirci che noi possiamo venire in Italia, quindi noi vogliamo wifi, wifi, anche stipendio. Bene, praticamente la signora Chieng è come il signor Bello Figo. Bello Figo su Bello wifi. Figo è un provocatore. Vai. C'è un po' di differenza, cioè. Ma sì, vabbè, certo, però wifi diritto umano, io questa cosa non me la levo dalla testa. Signora Chieng, che è europarlamentare del PD ed è, come sapete, è una persona che ha fatto il ministro in Italia, il primo ministro di colore in Italia. No, il primo ministro soprattutto all'integrazione, sì, che guarda, è una cosa cosa inutile, cioè, cosa totalmente inutile. Però no, non lei, come persona, sto dicendo il ministero. Guarda, però, talmente inutile che un primo ministro di destra, quale fu Sarkozy, introdusse proprio il ministro per il ministero per l'integrazione, lo fece un governo di destra. Senti, pensa a te, Cecilia, quando la destra, Cecilia, è intelligente. Ti voglio ricordare una cosa, tu senti più italiana te di Salvini? Beh, senza dubbio. Beh, oddio, più italiana di Salvini. Diciamo che siamo tutti italiani. Sì, ma sì o no? Ti senti più italiana di Salvini o no? Questo non è quello che ci è padano, sono... no, fino a poco tempo italiani, fa era padano. Siamo tutti italiani, vabbè. Voglio dire, non ha niente di più di quello che io possa avere per dichiararmi italiana. Sei italiana come Salvini, no, tu non hai niente di meno di Salvini, no? Da questo punto di vista non ti senti meno italiana di Salvini? Assolutamente no. Allora Trump, come lo consideri? Tre possibilità: un idiota, un razzista o un malato. Oddio, si possono scegliere tutte e tre, anche mi sembrano forse. Tutti e tre. Ah, ecco, guarda, mi ha anticipato. Cioè, Lorenzo, vedi che siamo in linea. Fai il portavoce, certo, direttamente. Fai il portavoce si direttamente. Si possono scegliere tutte e tre, tranquillamente. No, vabbè, devi scegliere. Ha toccato Trump. No, e ricordo anche qui che grazie al wifi, alla connettività, Noi succede? Abbiamo la possibilità anche di sapere quello che succede da un'altra parte. Beh, questo però da un po' di tempo, amica mia, che c'entra questo? Scusa. Sì, no, perché è fondamentale. Che c'entra la bellezza, insomma, di... Però ci sono anche dei contri di quelle persone che utilizzano lo sappiamo. Questo sistema per controllare. Però scusami, Cecilia, io voglio capire una cosa: malato, idiota o razzista? Non ho capito. Io direi tutti e tre. Tutti e tre, benissimo. Un malato, un idiota o un razzista. Senza dubbio. Vabbè, incredibile. Dai. Anche tu sei malato perché è un sessista. Hai la scorta, sì. Malato o no? Perché è un sessista. Hai la scorta adesso? In questo momento no, sono a Strasburgo. No, ma ce l'hai la scorta in Italia? Sì, una scorta di sicurezza. Hai una scorta di sicurezza. Vabbè, ma è una scorta. Quante persone sono? No, due. Due persone di scorta. Ti dà fastidio l'autista, avere la scorta? Ma diciamo che ti riduce tutta la libertà. E per me certo, vuol dire molto. E purtroppo certo, ci sono molti attacchi. E questa cosa ormai sono 4 anni che me lo porto avanti. Comunque, hai la scorta. La scorta ti dà, diciamo, ti crea dei problemi, diciamo, no? Di libertà. No, non mi crea problemi. Beh, quello hai detto. Mi sento meno libera. Mi sento meno libera. Sì, nel senso che mi sono adattato ormai, anzi le devo proprio ringraziare, questa è vabbè, questo d'accordo, questo d'accordo. Ma sai, tu però non sai cosa vuol dire se la mia vita si è adattata. Se lei vuole andare al cinema, lei ad esempio, Sgarbi dice che la scorta è bellissima perché ti accompagna dove ti pare, fai il cazzo che vuoi, eccetera, eccetera. Non è vero. Non è il mio caso perché io cerco di adattare, cioè cerco di adattarmi ormai a quelle che possono essere anche le esigenze di quelle che mi accompagnano. Però è brutta la vita con la scorta, diciamo, una vita brutta. No, direi che non è brutta, ma non sono libera di fare ciò che volevo prima. Ok, la legge Fiano è una legge giusta? Sì. È una legge giusta. Cioè tu metteresti al bando il commercio dei prodotti che, del Duce? Cioè i negozi di Predappio li chiuderesti o no? I negoci di Predappio che vendono il materiale del Duce, li chiuderesti? Guarda, è un quello po' delicato, però io direi che non sono d'accordo a fare propaganda o ideologia. Vabbè, questo fascismo, d'accordo, ma i negozi di Predappio li chiuderesti sì o no? Perché Fiano ha detto che li chiuderebbe i negozi di Predappio. Guarda, la legge dice così e c'è anche i suoi motivi, perché negli ultimi tempi dunque li chiuderesti sì o no? Il fascismo è aumentato. Ma, cioè, nel fascismo senso è aumentato. Che no, ho detto fascismo è aumentato. Le persone che professano cioè è più un pericolo, sono più un è più un pericolo l'immigrazione o la gente che si proclama fascista, secondo te? Beh, ma sicuramente non c'è dubbio, la gente che si proclama fascista, fascista. Allora, sì, l'immigrazione non è un pericolo. Benissimo, eh? Allora, ripeto, la scritta Dux. Dunque, gli immigrati sono una risorsa. Tu sei come la Boldrini da questo punto di vista. Sono delle risorse importanti gli immigrati. Certo, l'America è la Boldrini la vedresti considerato come leader, la vedresti la Boldrini, sì o no? Benissimo, la vedrei io come un leader, perché lo è già. Lo è e già non un vedo, non c'è niente che le manca. Per fare io anche il Presidente del Consiglio la Boldrini potrebbe fare. Perché no? Certo, perché no? Presidente della Repubblica. Perché no? Non capisco forse che ancora cosa meglio, potrebbe avere sì, di meno. Amico mio. Allora, la scritta Dux sui monumenti, alcuni monumenti, come voleva fare Fiano, la cancelleresti tu? Guarda, io penso che oggi non dobbiamo dare risalto a tutto quello che può essere. Però una risposta voglio, sì o no? Cioè le scritte sui monumenti, quelle le scritte. Ma Fiano non vuole cancellare le scritte sui monumenti, assolutamente. Assolutamente no. Cioè non è che io sto dicendo cancello qualcosa, ma non farei neanche in questo momento una propaganda. Vabbè, ma d'accordo, ma la scritta la cancelleresti sì o no? La scritta sulla pubblicità. Ma che vuol dire? C'è scritta, c'è la scritta su un monumento, la togli sì o no? Oppure va lasciata la scritta Dux enorme su monumenti? Sì. Va lasciata. Ma quale sì, monumento? Che mettiamo nei posti pubblici? Sì, come c'è, ci sono a Roma un sacco di posti pubblici. Rimane nell'archivio così, insomma, una cosa. No, le scritte Dux in pubblico non vanno, andrebbero cancellate. Le scritte Dux. Lei dice quelle storiche, no, ovviamente. Io quelle storiche. Sei il portavoce suo. Lo so. È il mio portavoce. Allora, le scritte sui monumenti, quelle che si vedono enormi, le scritte sui monumenti, l'obelisco là, come si chiama? C'è la scritta Dux, la cancelleresti, sì o no? No, non la cancellerei. Perché, ciao, amica mia. Sono delle cose della storia. Un abbraccio, ciao. Bravo. Vedi, le persone non sono abituate a dare risposte secche, invece bisogna abituarsi a rispondere sì, no, questo lo farei, questo non lo farei. Vogliono no, sempre ma spiegare, anche invece fare il i comizi, bello della senti, dell'onorevole Chienge è quello che argomenta anche le cose, ovviamente. Ma non bisogna argomentare, ci sono quelli, uno va porta a porta per argomentare, va troppo, non va porta a porta, dai. Massimiliano Bologna, ma come cazzo fate a vivere sapendo che ci sono dei pesciolini nell'acquario che soffrono? Io non lo so, avete un coraggio barbaro. In che senso? No, mi riferivo a quella minchiata, ironica, che ho sentito ieri. È ironico, naturalmente. Io sono non so da tanto tempo che vi ascolto, quindi Cruciani ti conoscevo e sentivo una voce di un anziano che ti accompagnava in questo programma, ho detto: ma chi cazzo è sto vecchiastro, avrà 78-80 anni, sta specie di summa di minchiate vecchie, anziane. Allora mi sono andato un pochino a incuriosire, ho detto: voglio vedere la faccia di questo rincoglionito che dice tutte queste minchie. Sì. E ho visto finalmente che si chiama Parenzo. Beh sì, sì, Parenzo, certo. Sì. Buonasera. È una cosa favolosa, poi l'ho incominciato a seguire bene, sì. E volevo dire a Parenzo, poi vi faccio, sì, perché veramente questa forma è unucoide, simpaticissima, volevo chiedergli, ma lui si è mai posto la domanda che quasi tutta la, a livello anche soprattutto genetico, cioè l'essere umano si basa su una sorta di voglia di procreare, quindi il sesso, l'amore, sono cose allora, basilari, certo. Come si fa a negarle? Ma chi le vuole negare? Scusami, chi no, le vuole? Lui, dicendo che non è possibile andare con una donna, anche se consenziente, anche magari pagando, qual è il problema? È una pulsione normale. Sono contro la prostituzione, sono contro l'uso delle donne da parte degli uomini. Come essere contro gli oceani, come essere contro l'acqua, no, come contro il respiro, cioè non bisogna respirare perché si respira. No, ma io capisco questo simpatico signore che purtroppo gli unici rapporti sessuali che Ali ha se paga, capisco poveretto perché non essendo non ho capito perché brutto e anche stupido. Subito gli stai dicendo che va a puttane ma è evidente perché le L'elogio della prostituzione, cioè del comprare dei servizi sessuali da una donna. Assolutamente, il servizio è proprio di persone che non hanno alcuna possibilità di far l'amore normalmente con una donna. Ma non è così. Cruciani, oltre a un problema probabilmente di circoncisione, c'è stata anche una problematica legata all'iposviluppo delle gonadi, no, e quindi questo ti provoca questo problema. No. Il problema invece è bello, è che il sesso è una cosa meravigliosa, è bellissimo. Certo, esatto, il fatto che tu lo faccia con una persona, il fatto che lei paghi, ma il no, fatto che lei paghi per farlo, dimostra chi pagare, è lei. Può anche non pagare, il fatto di andare con una donna nessuno lo mette in discussione. In merito invece proprio, ma si sta parlando della prostituzione, però è una cosa diversa. Allora, la prostituzione è assolutamente da liberalizzare, da rendere come legalizzare, una cosa gioiosa, felice, e ci siamo rotti i coglioni una volta per tutte di vedere questo bigottismo schifoso di questi operati. Ma io non sono bigotto per nulla, anzi. Quindi è una cosa gioiosa, bella, che sia pagamento, non sia pagamento. Beh, gioiosa, bella, adesso non è sempre gioiosa e bella, ci sono delle donne che lo fanno per necessità. Appunto. E non è che, non è che sono sempre i casi che quelli. Beh, ci sono, bene. Per carità, beh, ma la io... maggior parte, ma la maggioranza. Ma è come un impiegato che non vuole fare delle poste, che si annoia a fare quel lavoro lì. Fare, è come uno fa. Che spazza qui, che fa le pulizie dei cessi qui al Sole 24 Ore, e magari non è contento di farlo. La stessa cosa, una puttana non è contenta magari di vendere il suo corpo. Certo. Non c'è differenza tra usare il proprio corpo per pulire per terra, usare il proprio corpo per scopare. Questo è solo il vostro bigottismo che vi fa dire no, ma è così, la realtà è questa, dai, Massimiliano. Cruciani, questo vuole dire. Dobbiamo fare una cosa tosta, pesante, veramente. Voi spadroneggiate in questo orario nelle radio, non c'è paragone con gli altri rincoglioniti che sono in giro a fare dei programmetti inutili. Bravo. E è ora di metterci le palle e di fare qualche cosa di veramente evolutivo. Lei è una persona molto triste. Ma perché, scusa, non ho capito. È una persona triste. Guarda, per guardarsi allo specchio e vedere la tristezza impersonificata, basterebbe che Parenzo, che lo fa anche abbastanza spesso, penso, perché mi sembra che si lavi, quindi si guarderà probabilmente allo specchio. Lei se vuole triste. Vedere la tristezza impersonificata, lei basta mi fa tanto dispiacere, mi fa tanto dispiacere. Allora, comunque, mi fa dispiacere perché sentire delle persone normare, così sole che hanno bisogno di pagare, dobbiamo per avere fare una donna, in modo mi fa dispiacere. Che finalmente anche in Italia si arrivi come in Germania, in Austria, in Svizzera. Grazie, o nei Massimiliano. Grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao. Lo dovevo fare a nome di tutti gli italiani! Ladri! Ho strappato l'Inps oggi! Ho strappato l'Inps! Allora, maschio alfa, tu che puoi fare ululare di piacere femmine che pensi di non aver pagato, per quanto poi ti porti appresso quelle che hai comprato in esclusiva in altri modi con l'illusione di essere un conquistatore. Insomma, tu che guardi dall'alto in basso quelle come me, vedi di andare a fare in culo, pagando, si intende. Mi dà fastidio quello che immagina di essere rispettoso nei confronti delle donne, invece è sessista fino all'osso e neppure se ne accorge. Ma quanto è fastidioso il modo che ha di cancellare desideri e rivendicazioni altrui per imporre i propri, come David. Di quello sguardo pietoso e sessista e misogino e narcisista io so di non avere bisogno e mi dispiace vivamente che le prostitute debbano essere tanto offese nella propria intelligenza, perché vorrei che le ascoltasse senza alcuna remora per capire quanto è disincantato il loro sguardo nei confronti di questi uomini che esigerebbero di essere targati in quanto salvatori. Spesso le donne, le prostitute non vogliono i salvatori, non vogliono quelli che le vogliono salvare, vogliono fare il cazzo che vogliono in piena libertà. Fabio da Modena, vai per concludere. Fabio, veloce. Ciao, scusami, ciao Giuseppe. Dimmi. Io ce l'avevo con Parenzo, perché per giustificare poco fa il fatto che un vostro ascoltatore, diciamo tra virgolette culturalmente avanzato, si vedeva il porno del camionista con la moglie, ha detto che evidentemente doveva essere una curiosità sociologica. Ora, io sono un giornalista, ho fatto studi giuridici, quindi mi potrei anche definire una persona culturalmente avanzata. Vabbè, allora? E non mi vergogno a dire che ho visto per fini diversi dalla curiosità sociologica nella mia vita un film porno. E tra l'altro la trovo una frase, se mi permetti, quale? Fascista. Quale? Latentemente fascista. Quella che ha detto Parenzo, che siccome doveva giustificare la persona di cultura, ha detto avrà avuto curiosità sociologica. Come se quelli culturalmente, certo, avanzati non potessero vedere un porno. Chi l'ha detto? Ma sì, no, ma assolutamente è pieno, guarda Mughini non... che è amante dei porno, ma è normale, ma assolutamente. È pieno di gente laureata, problema? Intellettuali, professori universitari c'entra? Che ogni tanto si fanno una sega davanti a un porno, ma oppure guardano bene, un porno, ma per fate curiosità, quello che, ma allora, fate quello dai, che volete, fermi fate tutti che... Adamon. Taci miserabile! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ladri! E che cos'è?